24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Ben ritrovati da Gigi Donelli a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la fumata nera all'Eurogruppo in merito alla nuova parte di aiuti destinati ad Atene. Le resistenze tedesche avrebbero fatto saltare l'accordo, ma la cancelliera ha già fatto sapere che le condizioni per un'intesa ci sono. In evidenza anche la discussione in seno all'Unione sul bilancio. Dopo i grossi ostacoli posti da Londra, anche Roma si dice pronta a mettere il veto se la soluzione non fosse equa per i cittadini italiani. E poi la crisi in Medio Oriente. Bruxelles pronta a un ruolo attivo sul campo. Infine un sondaggio dell'ISPE su come sta cambiando il rapporto tra italiani e Unione Europea. Nulla di fatto durante la riunione fiume dell'Eurogruppo che doveva sbloccare gli aiuti alla Grecia. L'intesa sembrava molto vicina, ma alla fine si è preferito rinviare tutto a lunedì. Qual era il nodo del contendere? L'Eurogruppo doveva mettersi d'accordo fondamentalmente per un nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia. Questo era l'obiettivo della trattativa. I governi sono tendenzialmente d'accordo nel dare 2 anni in più alla Grecia per raggiungere i suoi obiettivi di bilancio, dal 2014 al 2016. Evidentemente questo spostamento in avanti provoca un buco nelle finanze pubbliche del paese mediterraneo. I paesi, quindi creditori, devono trovare soldi freschi. Il punto è ridurre il debito e come ridurre il debito. Ho l'impressione che ieri, dopo 11 ore di trattative, i problemi fossero soprattutto tecnici. Mi rendo conto perfettamente che i problemi tecnici nascondono anche dei nodi politici, ma l'impressione è che ci fosse la volontà di trovare un accordo. Ecco perché la trattativa è durata così a lungo. Il mancato accordo ha avuto ricadute sulle borse europee, aiutate poi a risollevarsi dai dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Le borse europee credono ancora a un accordo per lo sblocco degli aiuti alla Grecia e chiudono la seduta di mercoledì in territorio positivo. Nonostante lo stallo dei negoziati all'interno dell'Eurogruppo, tra gli investitori prevale la convinzione che l'intesa sarà raggiunta in occasione del prossimo vertice, in calendario lunedì. Maglia rosa di giornata è stata Piazza Affari, dove il FTSE share ha guadagnato lo 0,79% e il FTSE MIB lo 0,82%. Tra i titoli hanno recuperato terreno la maggior parte di quelli bancari, sostenuti dalla discesa dello spread attorno a quota 340 punti base. La Popolare di Milano è salita così del 3,59%, Intesa San Paolo del 2,38% e Unicredit lo 0,75%. Ha rialzato la testa anche Fiat più 1,6%, che martedì aveva chiuso ai minimi degli ultimi 12 mesi. Paolo Paronetto della Decor per Radio 24, il Sole 24 Ore. C'è stato un periodo non breve durante il quale è apparsa in discussione la permanenza stessa della Grecia nell'euro, fino a quando non si è messo un punto fermo con il presidente della BCE, Mario Draghi. La Grecia è nell'euro. Parole del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al termine dell'incontro con il presidente francese, François Hollande. Sentiamo allora il capo dello Stato sul tema della crescita europea. Siamo convinti che nello stesso tempo, non in un lontano secondo tempo, debbano essere messe in opera tutte le iniziative utili per favorire in tempi possibilmente rapidi una ripresa della occupazione, dell'economia, anche per rispondere alle ansie e alle attese dei cittadini e dei lavoratori dei nostri due paesi. L'Italia è pronta a mettere il veto se l'accordo sul bilancio 2014-2020 non fosse equo per i nostri cittadini. Lo ha detto il ministro per gli affari europei Enzo Moavero. Se la proposta per il bilancio fosse così catastrofica che l'Italia ci perderebbe pesantemente, questo ci porterebbe a non mettere il nostro voto all'unanimità. Quell'unanimità necessaria per approvare l'intesa, così Moavero. Allora sentiamo Francesca Balzani, deputata al Parlamento europeo, membro della Commissione Bilancio e relatore generale del bilancio europeo. Effettivamente siamo ancora molto in alto mare, sia per il negoziato di chiusura del 2012, sia per il bilancio 2013, sia ancora, come lei ricordava, per il pacchettone dei 7 anni 2014-2020. Tutte e tre questi negoziati dovevano chiudersi entro il 2012, ma oggi sembra molto difficile che ciò accada. E cosa può succedere? Il primo rischio grosso è, se non passa la chiusura, chiamiamola così, del 2012, è che manchino le risorse risorse per terminare molti programmi importanti. Ricordiamo tutti Erasmus, è uno dei programmi fiore all'occhiello che sono a rischio. Se non si chiude il 2012 mancano le risorse anche per terminare questo programma. Quindi questo è il primo negoziato da chiudere e su cui ci sono enormi difficoltà. L'Unione Europea si è detta disponibile ad assumere il controllo dei valichi tra Gaza e l'Egitto nel quadro della trattativa per regolare la guerra tra Israele e Hamas. Intanto la notizia del cessate il fuoco, nelle prossime ore attenderemo la conferma. Ora però sentiamo il ministro degli esteri Giulio Terzi sulle trattative ed il ruolo europeo. Ho la sensazione che Israele non avesse e non abbia nessuna fretta, nessun desiderio di entrare nella striscia di Gaza con un'operazione di terra. Lo farà se non sarà possibile risolvere in altro modo una situazione drammatica, difficilissima della sua popolazione nell'area e ora anche la popolazione di Tel Aviv e addirittura di Gerusalemme, che vive praticamente nei rifugi diverse parti della giornata. Il ministro degli esteri Lieberman mi diceva che c'è più di 1 milione e confido che ci possa essere un'interruzione dell'ostilità per avviare una seconda fase di stabilizzazione dell'intera area circostante Gaza attraverso un intervento anche di missioni che potrebbero essere anche una missione di controllo dei confini e dei valichi da parte dell'Unione Europea, come già c'era stato in passato. E questa è anche l'indicazione che ho avuto dal Parlamento oggi. Ministro, lei ha parlato di un ruolo dell'Italia in questa crisi medio orientale. In che cosa noi siamo stati utili? Ci siamo molto spesi. A diverse riprese siamo stati anche coloro che hanno veicolato alcune posizioni e credo che la voce dell'Italia anche in questi momenti così difficili per i paesi della regione sia una voce ascoltata e una voce confortante. Presentato ieri a Roma il sondaggio svolto dall'ISPO per conto della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, come è cambiato il rapporto degli italiani con l'Unione Europea? Una relazione messa a dura prova dalla crisi. Allora sentiamo Renato Mannheimer, direttore dell'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione. Le cose che più mi hanno colpito sono che l'Unione Europea ha una fiducia ancora elevata tra i cittadini, anche se meno di un tempo. C'è stato un calo di fiducia generalizzato in tutte le istituzioni, pensate che i partiti politici sono al 4%, l'Unione Europea è al 40%, c'è stata una maggiore richiesta di intervento dell'Unione Europea, gli si chiede adesso di intervenire su temi come il lavoro e quindi più criticità. L'altro elemento che mi ha colpito è il sostegno all'euro, qui c'è una discussione in corso nella politica italiana, euro sì, euro no, c'è qualcuno che dice uscire dall'euro, eccetera. La maggioranza netta della popolazione vuole l'euro. Alla presentazione è intervenuto anche il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Vedo che il dibattito non è Europa sì o Europa no. Dal sondaggio emerge chiaramente che gli italiani vogliono un'Europa diversa, un'Europa che dia risposte più forti per risolvere i loro problemi, a cominciare dal lavoro. Ecco perché sono convinto che si debba rinforzare la nostra azione a favore della reindustrializzazione dell'Unione Europea a sostegno delle piccole e medie imprese, perché l'economia reale è quella che può creare occupazione. Il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha approvato la nomina del maltese Tonio Borga commissario europeo alla salute. La nomina di Borg, contestata da diverse associazioni, tra cui Amnesty International, per le sue posizioni antiabortiste, ha spaccato l'assemblea. Tonio Borg prenderà il posto di John Daly, dimessosi dopo un caso di presunta concussione legato all'industria del tabacco. La Commissione europea ha fatto sapere che Borg si insedierà subito nella carica. La Commissione europea ha inviato ieri all'Italia una raffica di pareri motivati secondo stadio della procedura di infrazione sulla mancata o incompleta trasposizione o attuazione di direttive europee relative alla politica ambientale. I pareri motivati riguardano il non adempimento dell'obbligo di chiudere o mettere in regola le discariche di rifiuti, quelle naturalmente non conformi alle norme UE, e la mancata trasposizione delle modifiche al regolamento sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili. Infine, il recepimento troppo restrittivo della legislazione sulle alluvioni e l'incompleta trasposizione della direttiva su pile accumulatori e della legislazione su acque di balneazione. È il film italiano Io sono lì di Andrea Segre, il vincitore del premio Lux assegnato dal Parlamento europeo. Lo ha annunciato il presidente Martin Schulz durante la sessione plenaria a Strasburgo. Il premio è dedicato alle pellicole di produzione continentale che si occupano di tematiche sociali, quelle cioè che riflettono la ricchezza e la diversità delle culture dell'Unione Europea. Bene, con questo abbiamo detto tutto per il nostro appuntamento di oggi con 24 ore in Europa. Naturalmente ritorniamo domani alla stessa ora. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.